magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stasera andrebbe bene anche così. E non servirà più a niente la felicità, più niente anche la fantasia. E accontenterò del tempo andato, soffierà nel vento una lacrima che tornerà da te per dirti ciao, ciao. Mio piccolo ricordo in cui nascosi anni di felicità. Ciao, e guardami affrontare questa vita come fossi ancora qui. Magari un giorno l'universo accoglierà la mia richiesta e si riporterà vicini tra l'aldilà e il mio nido di città. C'è molta differenza, anche se provo a non vederla. E giro il mondo e chiamerò il tuo nome per millenni, e ti rivelerai quando non lo vorrò più. E non adesso qui su questo letto, in cui tragico mi accorgo che il tuo odore sta svanendo lento. Soffierà nel vento una lacrima che tornerà da te per dirti ciao, ciao. Mio piccolo ricordo in cui nascosi anni di felicità. Ciao, e guarda con orgoglio chi sostiene anche le guerre che non può. E senza pace dentro al petto, so che non posso fare tutto, ma se tornassi farei tutto e basta. E guardo fisso quella porta, perché se entrassi un'altra volta vorrebbe dire che anche io sono morto già. E tornerei da te per dirti ciao, ciao. Mio piccolo miracolo, sceso dal cielo per amare. Cade tutto l'universo e tu stai lì. La vita come tu te la ricordi, un giorno se ne andò con te.